ad alta voce. Daria De Florian legge Il diario di Anna Frank. Martedì 3 agosto 1943. Cara Kitty, con la politica va benissimo. In Italia il partito fascista è stato proibito. In molti luoghi il popolo si batte contro i fascisti. Alcuni militari partecipano alla lotta. Come può continuare a combattere contro l'Inghilterra un paese così? La nostra bella radio è stata portata via la settimana scorsa. Dussel era molto in collera perché Kugler l'aveva consegnata proprio il giorno prestabilito. Ho una considerazione sempre più bassa di Dussel. È già più o meno sotto zero. Tutto quello che dice di politica, geografia e altri argomenti è talmente privo di senso che non oso nemmeno ripeterlo. Hitler scomparirà dalla storia, il porto di Rotterdam è più grande di quello di Amburgo, gli inglesi sono idioti a non radere al suolo l'Italia con un bombardamento, eccetera, eccetera. C'è stato un terzo bombardamento, io ho stretto i denti e cercato di non perdermi d'animo. La signora Van Dan, che diceva sempre, vengano pure, e poi ancora, meglio una fine piena di paura che nessuna fine. Adesso è la più fifona di tutti. Stamattina tremava come una foglia ed è perfino scoppiata in lacrime. Suo marito, con cui aveva appena fatto la pace dopo una settimana di litigi, l'ha consolata. Mi sono quasi commossa al solo vedere la scena. Che avere un gatto non sia solo un vantaggio, Muschi ce l'ha dimostrato ampiamente. Tutta la casa è infestata di pulci e il flagello si estende di giorno in giorno. Il signor Kleiman ha sparso una polverina gialla in tutti gli angoli, ma alle pulci non dà nessun fastidio. La cosa ci innervosisce, ti sembra sempre di avere qualcosa che ti cammina su un braccio, su una gamba o su qualche altra parte del corpo. Per questo tutti si contorcono nelle posizioni più strane per guardarsi il polpaccio o il collo. Il nostro fisico si ribella, siamo troppo rigidi per ruotare bene la testa. Vera ginnastica, non ne facciamo più da tempo. Tua Anne. Mercoledì 4 agosto 1943. Cara Kitty, ormai che siamo nascosti da circa un anno, sai parecchie cose della nostra vita. Lo stesso, non ti posso spiegare bene tutto. Qui è talmente diverso rispetto alla vita normale con gente qualunque. Per darti un'idea un po' più precisa, ogni tanto ti descriverò un pezzo di una giornata qualsiasi. Comincio con la sera e la notte. Alle 9 di sera nell'alloggio segreto cominciano i preparativi per la notte e sono preparativi complessi. Si spostano sedie, si aprono letti, si ripiegano coperte e niente resta com'era durante il giorno. Io dormo su un divanetto che non arriva a 1,5 metri di lunghezza. Per questo bisogna allungarlo con le sedie. Il piumino, le lenzuola, i cuscini e le coperte, tutto viene preso dal letto di Dussel su cui è sistemato di giorno. Di là si sente un cigolio tremendo, il letto pieghevole di Margot. Di nuovo coperte e cuscini per rendere un po' più confortevoli le assi di legno. Sopra sembra che ci sia il finimondo, è solo il letto della signora, che viene spostato vicino alla finestra perché il nasino di Sua Altezza dalla Liseuse Rosa possa respirare l'aria frizzante. Ore 9. Dopo Peter vado in bagno io. Segue un lavaggio completo e non capita di rado che sull'acqua galleggi una piccola pulce. Poi pulizia dei denti, bigodini, pulizia delle unghie, batuffolo imbevuto di acqua ossigenata, serve per schiarire i baffi neri, il tutto in una mezz'oretta. 9:30, mi infilo in fretta all'accappatoio, sapone in una mano, pitalino, forcine, mutande, bigodini e ovatta nell'altra, esco di corsa. Spesso però vengo richiamata per via dei numerosi capelli che con le loro curve sinuose adornano il lavabo, ma non sono graditi a chi si lava dopo di me. Ore 10. Oscuramento, poi buonanotte. per un buon quarto d'ora scricchiolio di letti e sospiri di molle che non ne possono più, poi silenzio, sempre che i vicini di sopra non abbiano uno dei loro litigi serali. 11:30, scricchiola la porta del bagno. Nella stanza entra un sottile raggio di luce, cigolio di scarpe, un grande cappotto, ancora più grande dell'uomo che lo indossa. Dussel rientra dal turno di notte nell'ufficio di Kugler. 10 minuti di confusione, rumore di carte, i cibi vengono riposti, poi viene fatto il letto, il figuro scompare e per qualche tempo si sentono soltanto rumorini sospetti dal bagno. 3:00 circa. Devo alzarmi per sbrigare una piccola commissione nel vaso metallico che tengo sotto il letto, sotto cui è stato messo un tappetino di gomma a scanso di eventuali perdite. In questi momenti trattengo sempre il respiro perché il getto gorgoglia nel vaso come un ruscello di montagna. Il vaso torna al suo posto e la figura con la camicia bianca che ogni sera strappa Margot il commento «Oh, quella camicia indecente!» torna a letto. Per un quarto d'ora quella certa persona resta in ascolto dei rumori notturni, tanto per cominciare, se sotto c'è qualche ladro, poi i diversi letti sopra, accanto e nella sua stanza, da cui in genere si deduce come i coinquilini passano la notte, dormendo o semisvegli. E quello che si sente non è piacevole, soprattutto per quanto riguarda un certo dottor Dussel. Prima sento un rumorino, come di un pesce che fatica a respirare, che si ripete una decina di volte. Poi vengono faticosamente inumidite le labbra, il tutto intervallato a piccoli schiocchi e seguiti da lungo rivoltarsi e spostamento di cuscini. 5 minuti di silenzio totale e poi il tutto si ripete almeno 3 volte. Dopo il dottore si addormenta per un po'. A volte accade che di notte, tra 1 e 4, si senta sparare. Macchinalmente, senza ancora rendermene ben conto, sono in piedi accanto al letto. A volte sono talmente immersa nel sogno che penso ai verbi irregolari francesi o a un litigio di sopra. Solo quando è finito mi accorgo che erano spari e che io sono rimasta tranquilla nella mia stanza. Ma per lo più accade come dicevo sopra. Afferro subito un cuscino e un fazzoletto, mi metto l'accappatoio e le pantofole e corro da papà, proprio come scriveva Margot nella poesia per il mio compleanno. Nel cuor della notte, al primo rumore, si schiude una porta con grande fragore e appare una bimba, sgusciata dal letto, ha in mano un cuscino e un fazzoletto. Una volta arrivata al lettone, la paura più grande è passata, anche se continuano a sparare forte. 7:15. Drin! La sveglietta che può far sentire la sua voce ogni ora del giorno, quando lo si vuole oppure no. Cric, crac, bang! La signora l'ha spenta. Cric, crac! Il signore si è alzato, mette sull'acqua e poi di corsa in bagno. 7:15. La porta scricchiola di nuovo. Dussel può andare in bagno. Appena resto sola, tolgo l'oscuramento e nell'alloggio segreto comincia la nuova giornata. Tua Anne. Venerdì 10 settembre 1943. Cara Kitty, ogni volta che ti scrivo è successo qualcosa di particolare, ma sono cose più che altro sgradevoli. Questa volta invece c'è qualcosa di positivo. Mercoledì 8 settembre ascoltavamo il notiziario delle 7 di sera. Ecco le prime parole che abbiamo sentito. Here follows the best news from the World War. Italy has capitulated. L'Italia si è arresa incondizionatamente. Alle 8:15 attacca Radio Orange. Gentili ascoltatori, 1 ora e 15 fa, quando avevo appena finito di preparare la cronaca del giorno, mi arriva qui in redazione la splendida notizia della capitolazione dell'Italia. Posso assicurarvi che non avevo mai buttato nel cestino i miei appunti con tanta soddisfazione. Sono stati trasmessi God Save the King, l'inno americano e l'internazionale russa. Come sempre, Radio Orange è stata incoraggiante, ma non troppo ottimistica. Gli inglesi sono sbarcati a Napoli, l'Italia settentrionale occupata dai tedeschi. La tregua era già stata firmata venerdì 3 settembre, proprio il giorno dello sbarco inglese in Italia. Sui giornali i tedeschi imprecano contro il tradimento di Badoglio e dell'imperatore d'Italia. Però, nonostante ciò, abbiamo anche nuove preoccupazioni per la salute del signor Kleiman. Come saprai, gli vogliamo tutti molto bene, e anche se sta sempre male, ha molti dolori e non deve mangiare né camminare molto, è sempre allegro e ha un coraggio ammirevole. Quando entra il signor Kleiman spunta il sole, diceva recentemente la mamma, e ha proprio ragione. Adesso è in ospedale e dovrà restarci per almeno 4 settimane. Avresti dovuto vedere come ci è salutati, quasi uscisse per una commissione, nel modo più normale. Tua Anne. Giovedì 16 settembre 1943. Cara Kitty, i rapporti qui peggiorano a vista d'occhio. A tavola nessuno osa aprire bocca, tranne per farci scivolare dentro un boccone, perché tutto quello che si dice viene preso male o interpretato in modo errato. Ogni tanto viene a trovarci il signor Vosquil, purtroppo sta molto male. Per i suoi familiari non è facile, dato che un solo pensiero l'ossessiona. Cosa me ne importa, visto che comunque morirò presto? Posso immaginare l'atmosfera in casa Vosquil se penso a qual punto qui sono tutti agitati. Ogni giorno prendo pasticchette di valeriana contro la paura e la depressione. Lo stesso il giorno dopo sono di umore ancora più nero. Una bella risata di cuore servirebbe più di 10 pillole di valeriana, ma ormai ci siamo dimenticati come si fa a ridere. A volte temo che tutta questa tristezza mi farà venire la faccia deforme e la bocca ricurva in giù. Gli altri non se la cavano meglio. Tutti guardano con brutti presentimenti al grande macigno incombente che si chiama inverno. Un altro fatto che non ci rallegra di certo è che il magazziniere Van Maren comincia a nutrire sospetti sull'alloggio segreto. Uno che abbia un po' di cervello deve sospettare qualcosa quando Miep dice di andare nel laboratorio, Bepp in archivio, Kleiman nel magazzino della Opecta e Kluger afferma che questa parte della casa non appartiene al nostro edificio ma al vicino. Non ce ne importerebbe niente di quello che pensa il signor Van Maren se non fosse una persona notoriamente poco affidabile e molto curiosa che non è facile prendere per il naso. Un giorno Kugler voleva essere particolarmente cauto. All'1:10 si infila il cappotto e va nella drogheria all'angolo. Dopo neanche 5 minuti torna in ufficio, entra in punta di piedi come un ladro e viene su da noi. All'1:15 voleva andarsene, ma sul pianerotto lo incontra Bepp che lo avverte che Van Maren si trovava nell'ufficio. Kugler torna di sopra e si ferma da noi fino all'1:30. Poi si sfila le scarpe e scende scalzo, nonostante il raffreddore, un gradino alla volta con la massima attenzione per evitare ogni scricchiolio e dopo un quarto d'ora arriva in ufficio dal lato della strada. Bepp, intanto, essendo riuscita a liberarsi di Van Maren, viene da noi a prendere Kugler, ma lui se n'era già andato da un bel pezzo e stava ancora scendendo la scala scalzo. Che cosa avrà pensato la gente vedendo il direttore che si rimetteva le scarpe per strada? Il direttore in calze. Tua Anne. Venerdì 29 ottobre 1943. Io sto bene, a parte il fatto che non ho assolutamente appetito. Sento dire di continuo: ma che brutto aspetto che hai. Ammetto che si danno molto da fare per tenermi un po' su. Devo prendere zucchero d'uva, olio di fegato di merluzzo, compresse di lievito e calcio. Da tempo ormai non ho più il controllo dei nervi, soprattutto la domenica. Mi sento malissimo, perché in casa c'è un'atmosfera schiacciante, assonnata e pesantissima. Fuori non si sente cantare un uccello e tutto è avvolto da un silenzio di tomba angosciante che mi si appiccica addosso come se dovesse trascinarmi negli abissi profondi. Papà, mamma e Margot in questi momenti mi lasciano del tutto indifferente. Vago da una stanza all'altra, salgo e scendo le scale e mi sento come un uccello a cui siano state brutalmente strappate le ali, che va a sbattere contro le sbarre della sua gabbietta nell'oscurità più totale. Fuori, all'aperto, aria e risate, mi sento gridare dentro. Non rispondo neanche più. Vado a sdraiarmi su un divano e dormo, per riuscire almeno ad accorciare il tempo, il silenzio e anche la terribile paura, visto che non posso ammazzarli. Tua Anne. Sabato 30 ottobre 1943. A volte penso che Dio mi voglia mettere alla prova, adesso e anche dopo. Devo diventare buona da sola, senza esempi da seguire, senza spiegazioni, così poi sarò particolarmente forte. Chi, a parte me, rileggerà un domani tutte queste lettere? Chi mi consolerà se non lo farò da sola? Perché spesso ho bisogno di essere consolata, di frequente non sono abbastanza forte e le volte che sbaglio sono più di quelle in cui riesco a comportarmi come vorrei. Ne sono cosciente. E ogni giorno mi sforzo di migliorare. Non vengo sempre trattata allo stesso modo. Un giorno Anne è così giudiziosa che le si può dire tutto, e il giorno dopo sento dire che è soltanto una sciocchina che non sa niente di niente e crede di avere imparato chissà che cosa sui libri. Non sono più la neonata, la bambinetta a cui si può ridere dietro. Ho le mie aspirazioni, le mie idee, i miei progetti, anche se non riesco ancora a tradurli in parole. Oh, mi vengono in mente così tante cose la sera quando sono sola e anche di giorno, quando devo sopportare le persone che mi danno fastidio o quelle che travisano sempre il senso delle mie parole. Per questo ultimamente scrivo spesso sul diario, che è il mio punto di partenza e di arrivo, perché Kitty è sempre paziente. Le prometto che nonostante tutto ce la farò, troverò la mia strada e inghiottirò le lacrime. Solo che vorrei tanto vedere subito i risultati o essere incoraggiata da qualcuno che mi voglia bene. Non condannarmi, ma considerami una persona che a volte può averne proprio piene le tasche. Tua Anne. Lunedì sera, 8 novembre 1943. Cara Kitty, se rileggi le mie lettere una dopo l'altra, ti accorgerai sicuramente che sono scritte in momenti molto diversi. Mi secca essere così condizionata dagli stati d'animo dell'alloggio segreto. Comunque non succede solo a me, ma a tutti. Se leggo un libro che mi impressiona, devo mettere ordine dentro di me prima di avere contatti con altre persone, altrimenti si potrebbe pensare che io sia strana. In questo momento, come avrai notato, sto attraversando un periodo di depressioni. Non ti saprei dire perché, ma penso che il problema sia che sono vigliacca. Stasera c'era ancora Bep, hanno suonato lungamente il campanello. Io sono sbiancata e dalla paura mi sono venuti il mal di pancia e il batticuore. Di sera a letto, sola, senza mamma e papà, mi sento come in prigione. A volte vado errando per la strada o il nostro alloggio prende fuoco o vengono a prenderci di notte e per la disperazione corro a nascondermi sotto il letto. Vivo tutto come se mi riguardasse personalmente e poi ho anche la sensazione che tutto possa accadere realmente. È vero, Miep dice spesso che ci invidia perché qui stiamo in pace. Può darsi che sia vero, ma sicuramente non pensa che abbiamo paura. Non riesco a immaginare che il mondo per noi potrà mai tornare normale. Parlo di dopo la guerra, ma è come se parlassi di un castello in aria, di qualcosa che non potrà mai trasformarsi in realtà. Vedo noi otto nell'alloggio segreto, come se fossimo un pezzettino di cielo azzurro, circondati da nubi nere di pioggia. L'isoletta protetta su cui ci troviamo è ancora sicura, ma le nuvole si avvicinano sempre di più e il cerchio che ci separa dal pericolo incombente si fa sempre più stretto. Ora siamo già talmente circondati dai pericoli e dall'oscurità che per la disperazione di metterci in salvo ci scontriamo tra di noi. Guardiamo tutti in basso dove la gente combatte, guardiamo tutti in alto dove è bello e tranquillo e intanto siamo isolati da quella massa tetra che non ci lascia salire né scendere e che ci sta davanti come un muro impenetrabile che ci vuole distruggere, ma non può ancora farlo. Non mi resta che gridare e implorare. O cerchio, allargati e apriti per noi. Tua Anne. Giovedì 11 novembre 1943. Cara Kitty, ho trovato un bel titolo per questo capitolo. Ode alla mia penna stilografica, In Memoriam. La penna stilografica per me è sempre stata un oggetto prezioso. La apprezzavo molto soprattutto per il pennino grosso, perché so scrivere veramente bene solo con i pennini grossi. La mia stilo ha avuto una vita stilografica molto lunga e interessante che vorrei riassumere brevemente. Quando avevo 9 anni, la mia penna stilografica arrivò in un pacchetto avvolta in ovatta, come campione senza valore, fin da Aquisgrana, il luogo in cui abitava mia nonna, generosa donatrice. Ero a letto con l'influenza e fuori soffiava il vento di febbraio. La splendida stilografica era contenuta in un astuccio di pelle rossa e fu mostrata alle mie amiche il primo giorno. Io, Anne Frank, fiera proprietaria di una penna stilografica. Quando avevo 10 anni potei portarmi la penna a scuola e la maestra mi permise perfino di scriverci. A 11 anni il mio tesoro fu nascosto perché la signorina della sesta permetteva di usare solo penne e calamai. Quando compì 12 anni e andai al liceo ebraico, la mia penna diventò più importante e ricevette un bel astuccio nuovo in cui ci stava anche una matita e che sembrava più autentico perché aveva una cerniera lampo. A 13 anni la penna venne con me nell'alloggio segreto dove mi ha seguita attraverso numerosi diari e quaderni. Il mio 14° anno fu anche l'ultimo che lei passò con me. E adesso? Era venerdì dopo le 5 di pomeriggio e uscita dalla mia stanza avrei voluto sedermi a tavola per scrivere, ma sono stata rudemente allontanata per lasciare lo spazio a Margot e papà che dovevano fare gli esercizi di latino. La penna resta inutilizzata sul tavolo, la proprietaria si accontenta di un angolino del tavolo e si mette a lucidare fagioli. Qui lucidare fagioli significa recuperare fagioli ammuffiti. Alle 6:15 spazzo per terra e avvolgo quello che avevo raccolto e i fagioli marci in un foglio di giornale e butto il tutto nella stufa. Una fiammata splendida e mi piace un sacco aver rianimato così il fuoco che sembrava quasi spento. Torna la calma, i latinisti levano le tende e io mi siedo al tavolo per scrivere. Cerco la penna dappertutto, ma è scomparsa. Cerco di nuovo, cerca Margot, cerca la mamma, cerca papà, cerca Dussel, ma lei era sparita senza lasciare tracce. Forse è caduta nella stufa assieme ai fagioli, suggerisce Margot. Ma no, figurati, rispondo io. La sera, visto che la mia penna non voleva ancora farsi vedere, tutti hanno pensato che fosse bruciata, soprattutto perché la celluloide brucia benissimo. E infatti, il triste presagio è stato confermato il mattino seguente, quando papà, pulendo la stufa, in mezzo a una palata di cenere, ha trovato il fermaglio con cui la penna si aggancia al taschino. Il pennino d'oro era scomparso. Sicuramente si sarà fuso su uno dei mattoni, ha suggerito papà. Mi resta solo una consolazione, per quanto magra. La mia penna stilografica è stata cremata, proprio come un domani vorrei essere cremata io. tua Anne. Venerdì 24 dicembre 1943. Carissima Kitty, come ti ho già scritto più volte, qui tutti abbiamo problemi di umore e soprattutto per quanto mi riguarda, temo che questo tormento negli ultimi tempi sia molto peggiorato. Soprattutto adesso, in inverno, nei giorni di vacanza di Natale e Capodanno, ce ne stiamo qui come poveri emarginati. Però non dovrei scrivere queste cose, perché rischio di sembrare ingrata, ma non posso neppure tenermi tutto dentro e richiamo le parole con cui ho incominciato. La carta è paziente. Quando qualcuno arriva da fuori coi vestiti intrisi di vento e il viso fresco, vorrei cacciare la testa sotto le coperte per non pensarci. Quando ci sarà concesso di tornare a respirare aria fresca, e visto che non posso nascondermi sotto le coperte, ma devo invece restare salda, i pensieri vengono, non una, ma molte, innumerevoli volte. Credimi, quando te ne stai rinchiuso per un anno e mezzo, a volte sei proprio stufo. Lasciamo perdere un momento la giustizia e l'ingratitudine. I sentimenti non si possono mettere da parte. Andare in bicicletta, ballare, fischiettare, osservare il mondo, sentirmi giovane, sapere di essere libera. Ecco che cosa vorrei. Eppure non posso darlo a vedere, perché pensa un po' se tutti e otto cominciassimo a lamentarci e diventassimo insofferenti, ma dove andremo a finire? A volte penso, qualcuno qui dentro mi capirà, saprà vedere al di là dell'ingratitudine, dell'essere ebrei o meno e considerarmi soltanto per la ragazzina che sono, che ha tanto bisogno di divertirsi, non lo so. E non potrei nemmeno parlarne con qualcuno, perché sono sicura che mi metterei a piangere. Il pianto alleggerisce quando si ha una persona a cui piangere sulla spalla. Tua Anne. Daria De Florian ha letto Il diario di Anna Frank, edizione definitiva a cura di Miriam Pressler, traduzione di Laura Pignatti, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Per scaricare e riascoltare il programma radio3.rai.it.